patrzą co na rezi. Daj soborgi, daj soborgi, daj soborgi. Daj soborgi, daj soborgi, daj soborgi. Daj la loro forza, ej la strada i loro credo. Cospe pasi la loro rabbia, sopra i muri il loro nome. Daj soborgi, daj soborgi, daj soborgi. Daj soborgi, daj soborgi, daj soborgi. Daj soborgi, fiorentini. E eccoci a una nuova puntata di Passaggio al Nord-Ovest, una puntata ve l'abbiamo già anticipato alcune settimane fa, quando abbiamo fatto l'intervista a un attivista della lotta contro l'incendio dell'aeroporto. Appunto ci eravamo ripromessi di fare una successiva puntata in cui venivano illustrate le iniziative volte a contrastare questa, la costruzione di queste opere dannose e nocive. Ricordiamo comunque, siate all'ascolto di Radio Wombat, state ascoltando in streaming dal sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, dove potete anche scaricare i podcast delle puntate di Passaggio al Nord-Ovest e di tutte le puntate, le trasmissioni che vanno in onda su Radio Wombat. Ricordiamo l'account Twitter, twitter.com/radiowombatfi, per corrispondere con la radio, quindi l'indirizzo di posta elettronica, posta wombat@sva.net. Vi diciamo anche che Passaggio al Nord-Ovest va in diretta il lunedì alle 14, in replica il martedì e il giovedì alle 13 e sempre in replica il mercoledì e il venerdì alle 14. E quindi continuiamo, diciamo, una sorta di continuità con quella era che è stata la trasmissione di alcune settimane fa, in cui venivano esposte le ragioni del no all'incendio dell'aeroporto e appunto la concretizzazione, i passaggi, diciamo, i percorsi di lotta, ecco, per impedirle. E quindi, ecco, nei prossimi giorni una manifestazione, ecco, in questo caso, a differenza delle altre manifestazioni, in questo caso, o meglio, delle prime due manifestazioni contro l'inceneritore si sono svolte nel territorio ampigiano, la terza, quella grande, la dei 20.000, come ne era stato parlato la scorsa trasmissione, che comunque partiva dalla periferia e finiva in centro. Ecco, questa, diciamo, è proprio una manifestazione in cui, diciamo, si vuole portare nella città vetrina, da quanto si legge, diciamo, dai volantini, si vuole portare nella città vetrina quello che è quelle sono le problematiche della piana. Sì, buonasera, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Come sempre, sono contento, insomma, stasera, tra pochi giorni, sarà il 2 dicembre, e insomma porteremo le nostre vertenze che da anni stiamo seguendo e sulle quali ci stiamo impegnando nel centro di Firenze. Questo è il tentativo che vogliamo fare e che, diciamo, dalla metà di settembre abbiamo cominciato a costruire dentro le reti di movimento e dentro le riunioni delle realtà che compongono la vertenza della Piana. Crediamo il tentativo di dare in qualche modo un segnale di vitalità anche da parte del movimento e della componente auto-organizzata di questa opposizione, tenendo anche conto di quello che appunto è successo da una parte l'anno scorso o più recentemente da settembre in qua con il sindaco di Campi. Abbiamo, come ho riassunto un po' anche nella scorsa puntata, nell'ultima intervista che ho fatto qui con voi, la questione dei sindaci della Piana, che sicuramente sotto la spinta delle mobilitazioni hanno cambiato indirizzo. Da una parte Sesto, che in qualche modo guida anche più coerentemente come giunta questa opposizione, con atti amministrativi e con dichiarazioni tutto sommato oneste e rispondenti anche al mandato con il quale è stato eletto. Dall'altra la posizione che abbiamo guardato sempre in maniera con maggiore diffidenza del sindaco di Campi, Fossi. Ecco, tenendo conto appunto di quello che è successo e che ci sembra comunque significativo, senza necessariamente ripercorrere le vicende di altri altre situazioni, però ecco, anche il movimento NoTav ha sicuramente potuto contare sull'appoggio dei sindaci e delle amministrazioni locali, che poi, come abbiamo visto e come ricorderemo, come possiamo riguardare nei video e nei materiali storici, il governo le ha esautorate quando ha avuto la volontà di farlo, però indubbiamente dal punto di vista della compattezza e della penetrazione, della capillarità, insomma del no, aver avuto i sindaci dalla propria parte è sicuramente stato un elemento significativo, come si sta dimostrando significativo anche nel caso di Melendugno e della situazione dei NoTap, o come si è dimostrato significativo nel caso dei NoMuS e insomma in tante altre battaglie di difesa dei territori da grandi opere e da aggressioni affaristiche di questa portata. Quindi indubbiamente come movimenti noi guardiamo con favore quello che è successo a Sesto, con più diffidenza, ma ugualmente lo capitalizziamo come un risultato anche lo spostamento di asse, quantomeno sulla questione dell'inceneritore, che si è rilevato da parte del Comune di Campi. Dall'altra parte pensiamo che non possiamo, come abitanti e come cittadini, sia perché ci mobilitiamo da anni su queste questioni, sia perché guardiamo avanti a un riassetto complessivo dei nostri territori, non possiamo permettere a nessuno un facile greenwashing, no? Quindi non gli possiamo permettere a nessuno di spalmare una patina di verde e di ecocompatibilità su cose che invece ecocompatibili non lo sono affatto. Quindi non possiamo fermarci a quello che abbiamo già ottenuto, dovremmo riuscire a indicare la traiettoria di trasformazioni possibili nel prossimo futuro, e in questo senso la mobilitazione del 2 dicembre vorrebbe appunto andare in questa direzione. Il 2 dicembre quindi che facciamo? Abbiamo pensato di portare in qualche modo le contraddizioni, diciamo, delle periferie, portarle nel centro di Firenze, nel Salotto Buono. Chiaramente teniamo conto che sarà il 2 dicembre, come la Coppa e l'Esselunga ci insegna, i panettoni si vendono già dai primi di novembre, quindi il Salotto Buono della città comincerà ad essere addobbato per il Natale. In questo probabilmente Firenze dimostrerà un po' tutta la sua arrogante piccineria purtroppo darà prova di sé come teatro, come fondale, dove si svolgono uno show che va in onda più o meno quotidianamente, ma che nel periodo delle feste andrà in onda anche in modo più forte, più esasperato. Quindi la città della merce, la città che seduce i passanti con i suoi negozi, con i grandi marchi collocati nelle vie più storiche della città. E quindi dalle periferie crediamo che proprio nell'anno in cui Nardella che Nardella ha intitolato l'anno delle periferie, crediamo che sia invece opportuno che queste periferie vanno in centro e portano i loro no e le loro contraddizioni. Non ci saranno solo, direi, l'aspetto della periferia inteso non solo come periferia fiorentina, no? Perché d'altronde nei ragionamenti che da anni stiamo facendo, Firenze appare sempre meno Firenze come città, ma sempre più l'area metropolitana che da Firenze si estende fino a Prato, Prato e Pistoia, quindi un continuum urbanizzato che sicuramente le cui popolazioni, i cui abitati e le cui comunità territoriali subiscono indubbiamente, se non in modo omogeneo, comunque significativo, le ricadute di quello che accade. E quindi quando diciamo periferie, la intendiamo in modo molto largo. Non a caso il 2 dicembre diciamo l'inizio della mobilitazione sarà a Sesto Fiorentino, dove partiremo in treno per arrivare a Santa Maria Novella, poi da Santa Maria Novella con un percorso nel centro cittadino arriveremo o tenteremo di arrivare in Piazza della Signoria, per poi concludere la manifestazione molto probabilmente in Piazza della Repubblica. Ma ancora ci sono dei dettagli, perché chiaramente si sta parlando del Salotto Buono della città, chiaramente una città che vive anche di zone rosse che non hanno, i cui proprietari tra virgolette non hanno problemi a mettere in contraddizione con il diritto di manifestare sancito dalla Costituzione. Sì, zone rosse comunque di fatto, anche di fatto, sì. E ecco, quindi una manifestazione auto-organizzata dal basso, senza sponsor politici, diciamo, la gente che si organizza per portare le proprie ragioni, le ragioni della propria protesta in città. Ecco. Certo, sarà appunto una risposta di quella parte popolare che ha composto i movimenti in questi anni, in questi mesi, che appunto nelle proprie riunioni, anche attraverso assemblee pubbliche che sono state fatte in questo periodo, per lanciare, per ricercare tutti coloro che hanno fatto parte di questa lotta in questi anni e che in un momento in cui apparentemente, come un po' dicevo nell'ultima intervista, la situazione ha calato di tensione perché è diminuita la pressione della controparte, però è una manifestazione che serve secondo noi anche a tenersi, diciamo, in esercizio, no? Siccome potrebbero andare a capitalizzare un po' tutto all'inizio del 2018, crediamo che sia importante arrivare a fine anno con una mobilitazione. Dico questo perché abbiamo comunque delle scadenze significative in questa fine dell'anno. Da una parte quello che ha tenuto fermo l'iter autorizzativo per l'inceneritore di Case Passerini fino ad oggi è stata la sentenza del TAR del 10 novembre 2016, che chiaramente Qtermo, la società proponente il progetto di inceneritore, che ricordiamolo così è composta da Alia non più Quadrifoglio e da Era S.p.A., questa grossissima multi-utility di cui nel mese di novembre, ottobre-novembre, sono ricomparse nuovamente le locandine pubblicitarie in giro per l'ATAF. È comunque già un operatore dell'energia nel nostro territorio. Qualcuno probabilmente avrà anche ricevuto delle telefonate promozionali per diventare loro cliente, e che è la stessa che vorrebbe realizzare questo inceneritore. Fino ad oggi appunto è stato tenuto fermo dalla sentenza del TAR, ma Qtermo è ricorsa contro il ricorso, e quindi il 19 di dicembre ci sarà la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, che noi ci auguriamo possa essere favorevole ai movimenti, ai comitati, tenendo anche conto di quello che appunto, senza ripetermi, insomma, si è determinato nella sfera delle amministrazioni locali della Piana, ma non è affatto scontato. Ecco, dalla parte dei proponenti, indubbiamente quello che dicevamo nel 2013, preparando il primo piccolo corteo a Campi Bisenzio, che riaprì insomma questa nuova stagione di opposizione prima all'inceneritore e poi all'aeroporto, è ancora valido ad oggi, cioè resta sempre l'enorme multiutility di prima. L'incenerimento dei rifiuti è ancora un grossissimo business, un business comunque finanziato o cofinanziato dallo Stato. Adesso si aggiunge la possibilità di rivendere l'energia elettrica che viene prodotta attraverso la combustione dei rifiuti. Quindi indubbiamente tutto questo resta vero, e chi su queste cose macina fatturati da milioni di euro annui ha tutti gli interessi ad andare avanti e non certo a cambiare rotta. Quindi la scadenza la sentenza del Consiglio di Stato il 19, che però non sarà pubblica, non verrà comunicata molto probabilmente fino a dopo Natale, per aspetti legati appunto al procedere di questo tipo di giurisdizione, e dall'altra parte la possibilità che possano cominciare a scavare dal cantiere di Campo Marte Ponte Alpino per la realizzazione del tunnel TAV. Anche questo è un elemento che nella nostra agenda abbiamo col tempo imparato a inserire. Inizialmente, appunto, quando abbiamo fatto le prime manifestazioni nel 2013, 14, 15. Sì, volevo solo puntualizzare che alcune trasmissioni precedenti, la trasmissione alle 17 e 18, sempre di passaggio a nord-ovest, sono appunto interviste al comitato contro il sottoattraversamento TAV, a cui potete fare riferimento per ascoltare le ragioni dell'opposizione al tunnel TAV in una forma anche molto articolata. Ecco sì, ascoltatela, perché appunto io sarò breve in questo senso, ma insomma c'è anche questo, ecco, diciamo, nel pacchetto del 2 dicembre c'è anche la possibile ripresa del tunnel TAV. Anche sul tunnel TAV, come un po' è sull'inceneritore e sull'aeroporto, si è visto un balletto istituzionale spaventoso. Teniamo conto che solo per la situazione attuale di quella che era progettata come stazione Foster nella zona di Viale Corsica, via circondaria, sono già stati spesi 700 milioni di euro, sostanzialmente per realizzare una buca. Non lo so, è una cosa veramente, si commenta da sola, insomma, ascoltate poi le parole dell'attivista di Tiziano, del comitato, che sono sicuramente esaustive e interessanti, perché è frutto di un lavoro di anni, non solo di studio del caso fiorentino, ma insomma di partecipazione a forum e a situazioni anche internazionali. Quindi 700 milioni d'euro. Quest'estate c'era stato una specie d'apertura, o meglio le dichiarazioni del ministro dei trasporti Delrio, che aveva detto che dell'alta velocità fiorentina se ne poteva fare anche a meno, sembrava che si potesse aprire uno spiraglio per smettere di scavare in modo assolutamente insensato in quel cantiere e risparmiare alla città di Firenze il rischio idrogeologico, il rischio di fratturazione per gli edifici che è costituito dall'idea dei due tunnel, delle due canne di tunnel sotto attraversamento dalla stazione Foster fino a Campo di Marte Ponte Alpino. Sembrava ci fosse questa possibilità. Noi è stato appunto forse il primo momento in cui, come Movimento Non Inceneritore e Non Aeroporto, abbiamo virtuosamente, direi, incrociato e utilizzato la questione TAV, perché si fece subito un piccolo corteino a Rifredi. L'idea era quella di dire, più che rimettere in discussione il cantiere TAV, che purtroppo negli anni non è mai partita come opposizione popolare a un livello tale da mettere in discussione il progetto, ma quantomeno dire pubblicamente quello che è successo qui non deve più succedere, perché il rischio che le grandi opere si trasformino poi in una follia progettuale tale che non arriva a nulla, però raggiunge l'obiettivo da parte dei proponenti l'opera di mettere i soldi nelle casse pubbliche e quindi di poppare per anni decine, centinaia di milioni di euro, è un rischio assolutamente concreto, anzi forse più che un rischio alla luce di tutto quello che vediamo succedere in Italia è una certezza. E quindi con l'aeroporto di Firenze, che nasce con una follia progettuale simile a quella dell'attraversamento TAV fiorentino, il rischio è serio e c'è ancora, e quindi dicevamo questo in quel piccolo corteo estivo. Insomma, ad oggi il rischio è che il cantiere voglia davvero partire. Ad oggi la questione TAV è, dico, incagliata sul trattamento dei rifiuti speciali derivanti dall'eventuale scavo del tunnel. Ancora non hanno risolto questo problema, o meglio, lo risolverebbero forse a modo loro. Sempre il decreto Galletti, di cui ho già parlato nella precedente intervista, che è quello che sbloccherebbe anche la via per l'aeroporto fiorentino, permetterebbe di declassificare le terre di scavo dal rifiuto speciale al rifiuto non più speciale e quindi essere stoccate in discarica. A quel punto la cosa sarebbe più semplice per l'apertura del tunnel TAV. Quindi c'è la questione del tunnel TAV insieme a quella dell'inceneritore, c'è la questione dell'aeroporto, nei due sensi, dell'aeroporto attuale di Peretola, che è insostenibile, che l'ha detto anche Nardella, che comincia a essere insostenibile. Ovviamente Nardella lo ha detto per ragioni strumentali, tentando proprio di utilizzare in quel gioco di contrapposizione tra comunità territoriali gli abitanti di Peretola, Brozzi, Le Piagge e Quaracchi contro quelli sorvolati domani. Noi diciamo che effettivamente l'aeroporto di Peretola è insostenibile, ma non per farne uno nuovo, è insostenibile quello attuale, figuriamoci quello che vorrebbero realizzare. Quindi ci sono queste tre grandi opere che sono, diciamo, simboliche di una situazione di espropriazione da accumulazione, come la chiama David Harvey, credo uno degli autori che in questi anni è stato, senza sopravvalutarlo, mitizzarlo, comunque una stella polare, diciamo, della riflessione per quanto riguarda la città, i conflitti urbani e intrecciate a una riflessione più ampia di tipo marxista e legata ancora alle categorie della lotta di classe. Quindi la chiama accumulazione da espropriazione, e indubbiamente questi tre elementi, l'attraversamento TAV, l'inceneritore di Case Passerini e l'aeroporto di Firenze, sono tre esempi di questo. Li abbiamo per il 2 dicembre sinteticamente chiamati tre pacchi, che vorremmo restituire a quelli che negli anni li hanno sostenuti, che li continuano a sostenere e che probabilmente li continueranno a sostenere negli anni. Nello specifico il Partito Democratico. Il Partito Democratico, che in tutta Italia è di fatto il partito delle grandi opere, è il primo protagonista. Certamente poi ci sono anche poi situazioni e forze politiche trasversali, perché il Partito delle Grandi Opere è stato così chiamato, insomma, come partito trasversale, non ha mai avuto problemi da Mani Pulite in poi ad intrecciare alleanze e ad utilizzare come proprio amministratore delegato l'una o l'altra forza politica. Abbiamo avuto nel ventennio berlusconiano, che poi a guardarlo bene proprio ventennio non è stato, perché c'è stata un'alternanza di governo con le coalizioni centro-sinistra, ma insomma nel cosiddetto ventennio berlusconiano il partito del cemento e del tondino ha intrecciato alleanze con loro, poi lo ha fatto con grande capacità con il PD, domani potrebbe farlo con chiunque altro si presenta sulla scena. Quindi in questo senso la nostra è una, appunto, una mobilitazione che mette al centro l'auto-organizzazione degli abitanti e fortemente caratterizzata dall'autonomia dei movimenti rispetto ad ogni forza politica, anche a quelle che in questi anni o in questi mesi si sono avvicinate o hanno utilizzato o ripreso o adottato le nostre parole d'ordine, fino addirittura alla strategia rifiuti zero. Siamo usciti da questo autunno con un importantissimo, o quantomeno insomma, con un appuntamento importante, che è stata la Tre Giorni di Rifiuti Zero, che si è svolta nella Piana Fiorentina, a Villa Montalvo. Come componente di movimento del presidio, cioè, abbiamo partecipato, sintetizzo con questa espressione, tenendo le mani dentro e la testa fuori. Nel senso, riconosciamo indubbiamente all'esperienza di Rifiuti Zero una sua efficacia, ne riconosciamo indubbiamente una nascita, un'origine all'interno stesso delle lotte e delle mobilitazioni popolari. Nello stesso tempo però, per come si sta evolvendo la fase dell'accumulazione capitalistica a livello planetario, indubbiamente i nuovi padroni del mondo dovranno fare i conti anche con i limiti fisici imposti allo sviluppo, quindi con la possibile carenza di materie prime, con la crisi energetica, con le emissioni di CO2 che ne dica Trump. Dovranno fare i conti con tutta una serie di limiti che stanno venendo fuori in modo molto evidente. In questo senso assistiamo in tutto il mondo a nuove strategie, a una ridefinizione delle pratiche dell'accumulazione capitalistica, e quindi dobbiamo assolutamente stare attenti e vigilare affinché quello che fino ad oggi è stato un patrimonio delle lotte e un orizzonte rivendicativo delle nostre mobilitazioni non diventi invece la foglia di fico dietro la quale si mascherano delle amministrazioni furbe, e ancor peggio si costituiscono o nascono nuovi apparati di potere economico, no? Quindi dietro l'economia circolare, quindi dietro a questa idea della circolarità, dietro alle parole facilmente spendibili e anche accattivanti dell'ecocompatibilità, della bio, di ciò che è bio, di ciò che è eco, di ciò che è sostenibile, si nascondono invece poi molti poteri vecchi e nuovi, o vecchi poteri che si mascherano e cambiano pelle, o nuovi poteri che sorgono. Quindi appunto appuntamento sabato 2 dicembre alle 15. Sabato 2 dicembre ci vediamo prima alla stazione di Sesto, diciamo come punto per gli abitanti della Piana, come ho detto più volte. La stazione, insomma, di Sesto ore? La stazione di Sesto è alle 2 l'appuntamento, per essere poi a Santa Maria Novella intorno alle 3. Partiremo da Sesto con qualche, appunto, con questi pacchi che poi vorremmo riconsegnare a Nardella. Preso come simbolo, come ho detto, del partito delle grandi opere e delle nocività, glieli porteremo in Piazza della Signoria, passando nel centro vetrina, portando con noi in qualche modo le contraddizioni, la sporcizia che si vuole nascondere sotto il tappeto in questa città patinata e mercificata. Quindi cercheremo di portare i rumori degli aerei che ad oggi sorvolano per Etola, probabilmente porteremo qualche lenzuolo sporco di cherosene, lo stesso cherosene che esce in fase di atterraggio e di decollo passando sui quartieri di Quaracchi. Forse qualcuno porterà con sé dei sacchetti della spazzatura, per insegnare poi a Nardella che la spazzatura va differenziata e non buttata in cassonetti interrati di dimensioni bibliche che servono solo a scansare o a nascondere il sudicio agli occhi dei turisti. E quindi vabbè, ognuno può partecipare alla manifestazione e partecipare anche a una propria... col proprio sudicio. sì. Ci sentiamo... un pezzo musicale, prima di riprendere l'intervista, un po' in tema, ecco, People Have the Power, Patti Smith. My dream in Indonesia. Sempre all'ascolto di Radio Wombat, sempre all'ascolto di Passaggio a Norvosest, la rubrica di Radio Wombat, appunto, che parla, si interessa di quello che accade nel quadrante nord-ovest della città, e in questo caso appunto anche della piana, chiaramente anche della piana fiorentina, è raccontato, diciamo, fotografato, interpretato da chi nella piana, in generale, nel quadrante nord-ovest della città, ci vive e ci lavora. Parlavamo prima del corteo del 2 dicembre a Firenze, appunto, è un corteo contro il sottoattraversamento TAV, contro l'inceneritore, contro l'ampliamento della pista dell'aeroporto di Peretola, ma le iniziative non si fermano qui, e al di là di quelle, diciamo, quotidiane, volantinaggi, assemblee informative e via dicendo, ce n'è anche una un po' particolare che sostanzialmente vuole raccogliere, visto che ma vabbè, ce la facciamo spiegare meglio da dall'attivista, diciamo, sì, dai, sì, certo. Sì, sì. Ah, dai, facciamo qualche risata, perché è una cosina, crediamo, che possa essere simpatica. Tra tanti drammi di cui si è parlato, rifiuti, diossine, cadmio, furani, strivellamenti che ci vogliono, con cui ci vogliono affossare la vita oltre che a rapinare, abbiamo pensato quest'anno di fare una cosa, diciamo, simpatica per quello che forse potrà venire fuori. Abbiamo lanciato questa lotteria, l'abbiamo lanciata, diciamo, ha cominciato a marciare dai primi di novembre, recuperando un patrimonio di conoscenze, di radicamento nelle comunità territoriali in cui questi anni abbiamo costruito il movimento e da cui in questi anni sono nate le iniziative e le lotte di cui si è parlato. Allora, chiaramente l'idea della lotteria muove dall'obiettivo primario di raccogliere dei soldi. Il perché si raccolgono dei soldi è presto detto, insomma, come abitanti, come lavoratori auto-organizzati non si hanno finanziamenti, tutto quello che si fa sta sulle spalle, sul lavoro volontario, sulle contribuzioni di chi crede in quello che si sta facendo. In questo periodo, diciamo, si sono affacciate delle ipotesi, delle possibilità per quanto riguarda la difesa del nostro territorio del consolidamento del presidio, e mosse anche dalle minacce che in questi mesi abbiamo dovuto affrontare. Come in una precedente intervista un po' raccontato, l'estate del 2017, diciamo tra maggio e luglio del 2017, ha visto l'arrivo ai proprietari dei terreni della piana, quindi di quella porzione di territorio che va da Via dello Smannoro fino più o meno al casello autostradale di Firenze Nord, delle lettere che non parlavano ancora di espropri, ma dell'arrivo di una ditta che tra l'altro veniva da Sarzana. Pensate voi, invece che scendere il battaglione Lucetti da Sarzana, veniva una ditta per fare i carotaggi e le trivellazioni. Insomma, quest'estate abbiamo visto questo volto dell'avversario, quello dell'analisi dei terreni, degli scavi di superficie. L'abbiamo un po' affrontato con alcuni blocchi e una sorveglianza popolare, e ha cominciato poi a sembrare praticabile la possibilità da parte nostra di acquistare uno o più terreni nella zona della piana. Diciamo, la situazione, ne parliamo sempre in modo molto onesto e senza proclami, è limitata dalle intenzioni dei proprietari. Teniamo conto sempre di dove sono collocati questi terreni, quindi non sono i vigneti o i campi di lavanda della Val di Susa, non sono gli oliveti storici millenari del Salento, per fare degli esempi importanti, o non è neanche l'isola di Poveglia di fronte a Venezia. Sono in una zona che è stata considerata, e nella riorganizzazione degli ultimi decenni del territorio, di fatto è una specie di discarica, se non abusiva, comunque una zona dove insediare delle attività produttive o logistiche, e quindi in quanto tali chi in queste zone, in questi terreni, si è ritrovato a possedere delle porzioni di terreno sul quale ha tentato di fare agricoltura, si è ritrovato, come potete capire, in una situazione chiaramente non vantaggiosa da un punto di vista meramente economico. Quindi questi proprietari, per lo più persone anziane che hanno ereditato, sono originarie della piana e posseggono ancora questi terreni, hanno ad oggi, anche con un certo senso in qualche modo di rivalsa, l'idea di poterli valorizzare al massimo. Chiaramente tra gli abitanti che vorrebbero comprare dei terreni per difendere il territorio e mantenerlo in quella che crediamo essere la sua vocazione, cioè quella del verde agricolo, se non agricolo, comunque di compensazione per quanto riguarda gli inquinanti nell'aria. Come sappiamo, la piana è una delle zone più inquinate d'Italia e probabilmente d'Europa, non solo per quanto riguarda le attività produttive che ci sono insediate, ma per un particolare ricircolo dell'aria che manca e che i fiorentini da sempre stigmatizzano dicendo che si fa conca, si fa buca, no? Si fa buca perché non c'è ricircolo dell'aria. Quindi, anche se le emissioni sono inferiori ad altri territori, per la particolare conformazione e l'incapacità dell'aria di uscire appunto dal circolo delle colline, l'aria ristagna, resta lì e quindi gli inquinanti sono già ben presenti. Quindi altro che Parco della Piana come mitigazione dei futuri effetti dell'aeroporto e dell'inceneritore. Parco della Piana oggi, subito, come unica grande opera costruita dagli abitanti per cominciare a compensare quello che già inquina e già insidia la vita di tutti noi. Quindi insomma, come abitanti abbiamo tentato, stiamo ancora tentando di avviare delle trattative con dei proprietari per comprarci dei terreni. Il modello a cui ci ispiriamo, credo sia ispirato tutta Italia in questo senso, è quello dei mitici Notav, che si sono comprati più di un terreno con azionariato popolare per poi dare non pochi grattacapi alla controparte per quanto riguarda i futuri espropri, le eventuali notifiche, per mantenere come abitanti il diritto e la possibilità di accedere ai propri territori, in quanto andando a utilizzare, diciamo, entrando nel loro campo, quello della difesa della proprietà privata, che il diritto borghese fa da sempre. Quindi non scartando nessun tipo di strumento per questa lotta contro le grandi opere e le nocività, stiamo provando anche questo. Chiaramente si parla non di competere economicamente con Toscana Aeroporti, perché è una battaglia che è persa in partenza, però quantomeno si tratta di poter eventualmente fare delle offerte credibili a questi proprietari. Quindi si tratta, e non è secondario, anche di raggranellare dei soldi. Quindi abbiamo provato a mettere a valore le esperienze di questi anni, quindi i contatti tra i solidali, a partire dagli stessi attivisti e partecipanti alle esperienze più vive, no, del movimento, quindi tra le mamme non inceneritore, il presidio No Aeroporto e Non Inceneritore, il comitato di campi, il comitato Notav e poi tutte le situazioni nei territori con le quali abbiamo avuto a che fare: case del popolo, circoli, bar, ma anche appunto competenze che ognuno di noi possiede, alcune cose competenze magari più professionali, altre più legate ai talenti, alle passioni. Quindi stiamo mettendo su questa lotteria, che sì, quello che faccio è anche un invito a partecipare. Partecipare nei termini del: io vendo tot biglietti ad amici, parenti e solidali che si identificano nella cosa, vorrei avere un blocchettino di numeri, contatto alla pagina Facebook o al contatto Twitter o al numero di telefono collettivo che abbiamo attivato, gli attivisti del presidio, mi faccio vivo e ci mettiamo d'accordo, oppure mi do disponibile per mettere qualcosa in premio. Abbiamo pensato che una lotteria popolare non potesse prevedere solo due o tre premi per i tre grandi primi tre numeri, ma cercheremo di premiare almeno una ventina di numeri con premi magari di piccole entità. Quindi i primi tre numeri, la priorità la daremo a dei pacchi alimentari con prodotti di Genuino Clandestino, della rete di Genuino Clandestino, che va a rafforzare un po' il discorso su un altro uso della terra, dei terreni, un altro modello di agricoltura che non contiene nocività e non contiene neanche sfruttamento, che è praticato con capacità, con caparbietà dai neo ruralisti e dai nuovi contadini di Mondeggio e della rete di Genuino Clandestino e di Terra Bene Comune Firenze. Dall'altra parte abbiamo poi altri 17 premi che abbiamo pensato di lasciare la libertà a chi, al numero vincente, di sceglierli da un elenco. In questo elenco c'è un po' di tutto, detto. C'è da chi offre un'ora di massaggio, chi ha messo a disposizione un'ora di counseling, chi farà una serenata riparatrice, chi racconterà mezz'ora di barzellette, chi mette in palio e regala un portatabacco autocostruito con materiali di recupero, e via via via. Quindi vi invito a chi ascolta a guardare un po' la lista dei premi che abbiamo, che è sempre aperta fino all'estrazione finale, che sarà il 14 gennaio, eventualmente a contattarci per delle idee, che sono ovviamente ben accette. Quindi c'è la lotteria, è già avviata, l'estrazione sarà il 14 gennaio. Si premiano i primi 20 numeri, un numerino costa 2 euro, tre numeri costano 5, perché le offerte le fanno tutti e perché no, non si devono fare anche noi. Contattateci se avete delle idee, speriamo che sia una cosa ganza, che ci permetta di raggranellare qualche risorsa e che con qualche proprietario vada in porto l'acquisto di qualche terreno, che ovviamente contrasterà i tentativi di esproprio che sarebbero, semmai partiranno, noi ci auguriamo di non arrivarci, ma purtroppo niente ci dice che non succederà, sarebbero la prima fase dei lavori, cioè prima di cominciare a muovere qualunque pietra dovranno entrare in possesso dei terreni, e sarà sicuramente anche quella una fase in cui dovremmo lavorare abbastanza fortemente, perché nel momento in cui diventano proprietari poi possono cantierizzare, possono chiudere, e cosa che non possiamo e non dobbiamo permettere. Una lotteria che sembra una bischerata, ma inserita in questo contesto non lo è affatto. E vabbè, questa era l'ultima notizia, diciamo, da questo punto di vista. Ricordiamo il corteo il 2 dicembre, pomeriggio, ricordiamo, certo, la lotteria a cui potete partecipare sia acquistando, sia diffondendo i numeri, sia proponendosi per regali, per i premi, ecco. E vi salutiamo da Passaggio a Nord-Ovest, alla prossima e ciao. Ciao.